Sì. Wow, sì. Oh mio Dio. Dai, si fa. Wow, sì. Oh mio Dio. Sì. Sì, vai. Bellissimo. Yeah. Yeah! Yay! Oddio, sì. Ehi! Ehi! Basta, ehi! Oh, dai, no! Ah? Oh mio Dio! Yeah. Mamma mia. Dai. Oddio, cosa devo fare? No, non ci credo. No. E vai! Non è possibile. È davvero bello. Mamma mia, Madonna, oddio, cosa devo fare? Quindi? No. Quindi? Non ci credo. Ma subito. Ah? Sì! Dai. Oh. Ah. Oh, mamma mia. Dio. Dai, su, dai. Oh mio Dio, wow. Non sono mica reale. Wow, sì. Oh mio Dio. Ah. Yeah. No. No, no, no. Sì! Ah, bello. Oddio. Sì, sì, sì, dai, dai, dai, dai, sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, dai, si fa, si fa, si fa, si fa, si fa. Dai, dai, dai, dai. Oddio! Sì, dai! Vai! Dai. Che cosa vuoi dire? Sì. Sì, dai, Dai,